Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, con discreta puntualità inizia questo appuntamento con Rock Wave. Ancora una volta abbiamo musica dal vivo nei nostri studi. Stavo pensando, non l'abbiamo fatto apposta, ma nelle ultime due settimane abbiamo avuto musica proveniente da isole, musicisti provenienti da isole. La settimana scorsa era leggermente più esotico, dagli Hawaii, difficile battere una provenienza del genere. Questa volta è un'isola molto più vicina e cara anche a noi, ovvero sia la Sardegna, da cui proviene Francesco Piu, al quale do il benvenuto nei nostri studi. Ciao, buonasera a tutti. Grazie. Francesco è qui perché suonerà domani a Padova, questa è la prima ragione, e anche per presentarci il suo terzo album, che si intitola Mammutones, che si pronuncia così? Sì, no? Sì. La parola sarda si pronuncia Mammutones. Mammutones. Mammutones, così con Mammutones. Io l'ho fatta un po' più americana, dai. Hai fatto un cortocircuito. Ecco, vi dico subito che Francesco è arrivato ben attrezzato. Ci sono i mostri a tre teste, lui invece ha tre chitarre, quindi ci sarà veramente da divertirsi. Tre chitarre molto diverse tra di loro, lo sentirete dal suono, ma magari poi ne parleremo prima che cominci a maneggiarle. E, come prima cosa, come facciamo sempre, vi facciamo ascoltare un brano dal suo disco. Non ho detto ancora che Francesco è un bluesman, in senso, diciamo, forse non sei un bluesman molto tradizionale, questa è l'impressione che ho avuto, nel senso che metti insieme molte scuole diverse di blues. Sì, dimmi se no. Sì, dai, sono abbastanza eclettico come. Ecco, eclettico. Okay. È la parola giusta. E, allora, ci ascoltiamo intanto un brano che è quello che apre questo suo nuovo album, un brano che si intitola The End of Your Spell, che hai scritto tu, giusto? Sì, sì. Ok, perché poi ci sono anche altri autori coinvolti nei suoi dischi, anche gente di un certo peso, diciamo. E allora ci ascoltiamo questo pezzo per presentarvi Francesco, che poi invece ci intratterrà con la musica dal vivo. Buon ascolto a tutti. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. America, your world is breaking up too. Girls, why don't shine so bright like it used to do? Your voice is not so loud, it's the end. Oh, hear the end. End of Your Spell, pezzo torrido, sì, veramente molto molto molto tirato. E, vedevo qua sui credit del disco che in realtà è un disco, è un brano fatto in trio. Sì, io suona come una valanga di gente. Non è un suono, il suono scheletrico che uno si aspetta normalmente da un trio. Ma a me piace questa formazione atipica del trio, perché non abbiamo il basso, sono io che in genere faccio le linee di basso con le chitarre, quindi in stile fingerstyle con la chitarra acustica. In questo caso suonavo una lap steel elettrica in realtà, però mi piace questo suono in cui magari i bassi li alterno con l'armonica, è un po' diverso, dai. Vabbè, parliamo un attimo di te. Tu, appunto, abbiamo già detto, vieni dalla Sardegna, vicino a Sassari, giusto? Sì. E adesso vivi a Milano. Sì. Magari preferesti vivere in Louisiana o in qualche altro... Ma anche la Sardegna, diciamo che si sta bene in questo periodo, soprattutto. No, parlo musicalmente io, non dal punto di vista paesaggistico. Ma sì, musicalmente ho avuto la fortuna di stare per un po' di tempo, di girare là a Louisiana, Tennessee, e devo dire che è stata un'esperienza bellissima. E quindi, però è anche vero che, cioè, dobbiamo anche essere fieri delle nostre origini, delle nostre, cioè, magari non abbiamo la musica che c'è là, però ci sono tante altre cose che ci danno delle belle, diciamo, vibrazioni, là. Sì, sicuramente è che la tua musica è molto molto legata, diciamo, all'America. D'altra parte, insomma, il blues è da lì, è giusto anche che sia così. E, questo è il tuo terzo disco e vede una partecipazione molto importante, una ventata di internazionalità, visto che è stato prodotto da Eric Bibb, che è un bluesman di un certo prestigio e importanza. Io noto che non sei il primo ospite che ha avuto collaborazioni con musicisti americani. La cosa interessante è che sono sempre musicisti che vengono spinti da un'amicizia o da un apprezzamento, e non è che siano dei mercenari, diciamo così. Non credo che lui produrrebbe qualsiasi disco di chiunque, giusto? Ma no, penso di no, nel senso che comunque gli ho fatto ascoltare i provini per tempo e lui è stato entusiasta del lavoro, perciò, cioè, penso che sia tutto un qualcosa di sincero la sua collaborazione. E immagino che per te sia stato una soddisfazione enorme avere un apprezzamento da parte di un personaggio di questo livello. L'ho assolutamente scontato, giusto? Perché poi lui io ho sempre suonato one man band, adesso appunto da qualche anno che mi muovo in duo o in trio, però ho sempre suonato one man band. E lui è sempre stato uno dei miei punti di riferimento, perché lui, come one man band, penso che sia nell'ambito blues uno dei migliori, forse comunque tra i migliori che c'è ora. E quindi averlo a fianco in studio di registrazione e seguire i suoi consigli per me è stato appunto oro colato. E quindi, che dire, più soddisfatto di così? Ma così, per curiosità, è uno che si impone, che consiglia, come funziona la cosa? Ma ha fatto proprio, lui ha fatto ha svolto il ruolo del produttore proprio al meglio, appunto, di quello che poteva fare. Cioè, se ascoltiamo i dischi di Bib, sono molto tranquilli, molto intimisti. Invece qua ha voluto proprio lavorare sulle mie, diciamo, sulle mie direttive, cioè sulle mie qualità, e talvolta le ha anche portate, diciamo, le ha incrementate con i suoi consigli. Quindi ha voluto, diciamo, lavorare sul lavoro che avevo già fatto io, mantenendo quella stessa direzione che volevo dare io all'album, solo appunto arricchendola dei suoi consigli. Soprattutto ha lavorato molto sulla voce, quindi mi ha fatto vedere, mi ha fatto sentire come potevo cantare in un'altra maniera i brani rispetto a come li avevo, diciamo, interpretati all'inizio io. Ed è stato appunto un nuovo mondo che si apriva, e vedere un po' come potevo interpretare. Fantastico, veramente il lavoro ideale del produttore, perché sai, a volte i produttori tendono a essere un po' invasivi. Abbiamo avuto... No, ma noi siamo gente di blues, gente di peace and love, quindi... Non so. Tranquilli. Va bene, allora, prima ho annunciato che hai tre chitarre in studio. La prima che hai imbracciato è una National, una Resophonic, giusto? Sì. Per chi non fosse esperto, è una chitarra in metallo, fondamentalmente, esatto. E che ha quel suono che fa veramente caldo, cioè è un suono particolarissimo. E tecnicamente, parlo da ignorante, è più difficile da suonare di una chitarra normale o uguale? Ma no, si suona in un'altra maniera, in realtà. Cioè, questa io sostanzialmente la suono con lo slide, quindi... delle accordature aperte, perciò anzi potrebbe risultare più semplice da utilizzare, perché già a vuoto suonare tutte e sei le corde a vuoto ci dà già un accordo senza mettere le dita, perciò può essere anche più semplice, però naturalmente un po' relativo, nel senso, sì, se ci provo io comunque non funziona. Ma bisogna vedere che approccio si ha sempre, cioè alla fine è semplice, non è mai suonare semplice, o può essere anche tutto semplice, dipende che pretese si hanno e che cosa si deve suonare. Chiaro. E comunque è una chitarra che ha una specie di risonanza naturale, giusto? Infatti si chiama resofonica. Si chiama resofonica perché ha un risonatore metallico che quindi dà più volume alla chitarra rispetto a una chitarra acustica normale. Perché queste chitarre nascono perché ai tempi, forse negli anni 20, anni 30, appunto non c'erano ancora i sistemi di amplificazione. Allora, quando si suonava nelle Dixieland Band, c'erano gli ottoni che avevano un volume maggiore rispetto alle chitarre. Allora questi due fratelli polacchi trapiantati in America si sono inventati e si chiamavano Dopiera Brothers, e quindi è nato là il nome Dobro. Questo Dopiera non lo Brothers, sapevo. E quindi hanno inventato questo tipo di chitarra per avere un volume maggiore, e questa chitarra appunto è stata presa poi dai bluesmen del Mississippi per, con lo slide si ha appunto questo suono classico del Delta Blues proprio. Quindi niente, la chitarra resofonica per il risuonatore. Perfetto, molto interessante. Penso che tutti i nostri ascoltatori siano stati molto riconoscenti di questa spiegazione, perché a volte si sentono questi suoni, ma appunto sapere un po' di storia dietro è estremamente intrigante. E a questo punto devo solo chiederti cosa ci suoni, visto che la chitarra è pronta. Un brano gospel così, per un brano molto positivo, così i radioascoltatori, attenzione, i radioascoltatori riceveranno un po' di vibrazioni positive del gospel. Come si intitola il brano? Hand it over. If your problem won't go away, and you worry night and day, hand it over. Pray. seek, feel and lure. Got no money, got nowhere to go. Hand it over, get on your knees and pray. Hand it over, hand it over. Give it up, give it over. Over era Francesco Piu dal vivo qui su Blu Radio Veneto, veramente caldissima questa sonorità, questa, anche la tua voce, devo dire, sembra fatta apposta per questa unione, diciamo, col suono metallico della Resophonic, c'è la voce molto calda, quindi sì. Ti ringrazio. Vi bilanciate molto bene. Vedo che il brano è firmato da un certo Moore. Un certo Kevin Moore, meglio noto come Kev Mo. Questo Kevin Moore. Non sapevo neanche che avesse un altro nome. Sì, Kev Moore è appunto il soprannome, diciamo. Vedo qua soprattutto in questo disco dal vivo che ci hai portato live at Amygdala Theater, ci sono molte cover, alcuni nomi, come dire, abbastanza noti, tipo Bob Dylan, Tom Waits, Robert Johnson. Come scegli le cover? Là ho voluto appunto fare un po', riproporre con questo mio trio, quindi con questo sound, chitarra acustica, dobro e vari appunto strumenti acustici, più la batteria e percussioni e armonica, dei brani che vengono da tutt'altre sonorità, al di là di Andy Dover, che appunto è un gospel e quindi ci sta appunto che venga suonata così, però anche brani tipo All on the Watchtower di Dylan, riproposta in una maniera un po' più psichedelica con la Weissenborn, che è una chitarra hawaiana che si suona, per intenderci, la chitarra che utilizza Ben Harper. Mm-hmm. La stessa Barcarolle di Tom Waits fatta strumentale, perché niente, ho smesso di fumare, quindi non posso neanche pretendere di cantare Tom Waits, allora l'ho fatta strumentale. No, penso che non basti neanche fumare per cantare come Tom Waits. Avvicinarsi almeno. Non sì. So. No, in effetti è meglio evitare il confronto, perché mi sarebbe fatto... Mi piace molto riarrangiare, diciamo. Oltre, vabbè, quest'ultimo disco, Mammut Ons, diciamo, mi sono più cimentato sulla composizione, perché sentivo anche la necessità di dire qualcosa proprio di nuovo, di mio. Però prima ho sempre pensato che comunque il fatto di di affacciarmi, diciamo, anche ad altri generi che non sono tipici del blues, ma magari vengono dal cantautorato americano, e riproporli in chiave blues poteva essere una maniera di rileggere certe, appunto, certe sonorità in un'altra versione. Mm-hmm. E allora, visto che hai citato l'album, adesso ci ascoltiamo un altro estratto da questo Mammoth Tones, si intitola Over You. SMS 346 23 20 033. Questo brano era Over You. Ci tengo a dire che poi nel disco ci sono anche pezzi più tranquilli, perché da questi due primi brani sembra proprio un disco da festa, da come dire, gente che balla, che beve anche parecchio. Beh, comunque il blues ci vuole anche quello. Sì, sì, ma in effetti poi il blues c'ha questa caratteristica che è un genere, se vogliamo, abbastanza circoscritto, però poi all'interno si può fare appunto dal blues estremamente rumoroso a quello molto molto intimista, con appunto pochi accordi, la voce soffusa, certo, diciamo alla Robert Johnson, certo, o tanti altri, quindi ma vabbè, una domanda te l'hanno fatto un milione di volte. Tu sei nato e vissuto in Sardegna, però sei diventato appassionato di questa musica. Ho letto che ti è venuto un po' dalla famiglia questa caratteristica. Sì, innanzitutto voglio anche sfatare questa cosa della Sardegna, perché molti dicono, mi dicono, ma tu sei sardo, sono i blues. Noi sardi abbiamo già nella bandiera dei Quattro Mori, appunto quattro esponenti della Delta Blues, perché i Quattro Mori erano Robert Johnson, John Lee Hooker, Son Housel, Morgan. Quindi ragazzi, noi sardi mi siamo... Mi ero sempre chiesto, okay, che fossero i fatti. Ok. Poi io vengo da una famiglia appunto in cui appunto mio padre mi ha contagiato questa bella malattia della musica, perché lui suonava il basso, e poi ho a casa una bella collezione di vinile di rock e blues degli anni 70, quindi da John Mayall, poi anche rock progressivo, un po' di cose belle, diciamo. Lo zio di mio padre, quindi fratello di mio nonno, suonava la batteria con Fredo Buscaglione. Poi in famiglia abbiamo... Comunque... Deve essere divertito, sì, tuo frazio, sì. Perché all'epoca penso che andare in giro con Buscaglione deve essere stato un bel divertimento. Lo tiro a indovinare, però l'impressione è quella. Non so se ti ha raccontato storie. Ma no, io vabbè, poi l'ho conosciuto proprio che ero piccolino, quindi non ho direttamente, diciamo, ascoltato le sue avventure. E poi comunque siamo una famiglia, diversi cugini che suonano, mio fratello suona la chitarra, quindi diciamo che la passione in casa c'è ed è bella viva, diciamo. Nessuno che abbia tirato fuori che magari, siccome la Sardegna prima della Costa Smeralda era un'isola piuttosto povera, ricordo, allora c'era questa commistione con i poveri neri americani, ma no? Magari c'è anche quello, chi lo sa, non si sa. Mi è venuto in mente, ma è una sociologia, diciamo, da quattro soldi. E adesso hai cambiato, hai un banjo, che adesso lo dico agli ascoltatori, è un banjo bluegrass. Faccio bella figura, perché me l'hai appena spiegato tu, che si differenzia, visto che non siamo in TV e non si vede, si differenzia dagli altri banjo, ha sempre cinque corde, però una è amputata, diciamo. Sì, banjo bluegrass, questo modello Gao. Niente, vado a fare un brano con, sì, questo. Si sente come suona, viene suonato con quelli che noi chiameremo le unghie di metallo. In esatto, con i picks. Lo utilizzo in questo caso per un brano che ora farò appunto qua in versione woman band, però in studio ho anche l'aiuto della batteria, quindi c'è questo suono, diciamo, moderno della batteria, è molto tra virgolette groovoso, con uno strumento, diciamo, più utilizzato nel bluegrass e nel country, quindi mi piace l'idea di miscelare due mondi nella, diciamo... Sì, perché se non sbaglio nel blues tradizionale il banjo non è che sia usatissimo. Ma no, viene utilizzato, è stato utilizzato recentemente da degli artisti quali Otis Taylor, Keb Moe, anche Corey Harris, che hanno fatto, soprattutto Otis Taylor ha fatto questa specie di blues moderno, si chiama trance blues, con dei pedali, delle cose abbastanza ipnotiche, però è, diciamo, uno strumento più legato al bluegrass e alla musica folk americana, quindi. Country, sicuramente. Io scusa se adesso ti faccio suonare, ma mi viene in mente, nel disco sento che usi spesso il banjo in funzione ritmica. Ma in realtà lo utilizzo, sì, per esempio in The End of Your Spell l'ho utilizzato come sottofondo, invece qua è più nel brano che andrò a fare, che è Stand By Button, è proprio lo strumento principale, quindi dipende anche gli do il ruolo diverso in base al brano. Ok, allora ci ascoltiamo Francesco Piu dal vivo qui su Rock Wave, questo brano si intitola Stand by Button. Era questo brano ancora una volta travolgente, viene da dire, ma volevo chiederti, i testi sono di Daniele Tenca? Allora, in questo caso il testo è stato scritto da Daniele Tenca, che voi conoscete già, è stato dal nostro ospite, sì, vero. Sì. E quindi c'è stata anche questa collaborazione con Daniele, che appunto lui è molto bravo nell'ambito appunto della scrittura dei brani. Ha fatto un bel disco di si chiama Blues for the Working Class, e quindi dopo mi è stato presentato al mio batterista, che suona anche con lui, che è Pablo Leoni, e quindi è nata questa collaborazione. Sono molto soddisfatto appunto della... Ma tu qualche testo vedo che l'hai scritto anche tu, comunque. Sì, io ho fatto appunto il primo brano, The End of Your Spell, che è un brano che appunto un po' un grido di protesta verso appunto la situazione politico e culturale che stiamo vivendo. Poi ho fatto Overdose of Sorrow e poi Down on My Knees. Poi gli altri brani invece, gli altri brani appunto inediti, io ho fatto la musica e Daniele ha fatto il testo. E ti senti più, non so, hai qualche problema a scrivere o... Ma no, io sono, nasco come musicista e quindi ho sempre più puntato allo studio, la cura del suono, degli strumenti, e quindi diciamo che il fatto di scrivere i testi è un qualcosa per me nuovo, mi sto cimentando pian piano, e qua appunto sono tre brani interamente miei, e nel primo disco c'erano altri tre brani scritti da me sempre. pian piano, diciamo, non ci abbiamo fretta, magari il prossimo lo facciamo tutto con i testi miei e vediamo un po' cosa ne viene fuori. E peraltro notavo che in questo brano Daniele ha usato una struttura tipica del blues, cioè la ripetizione, sì, che è sì, proprio... Sì, là praticamente è successo che io ho fatto già tutte le musiche, quindi ho dato a lui la musica, lui in base alla musica poi ha, diciamo, ha costruito su il testo, quindi è stato una specie di proprio incollare un po' di parti là, un po' di idee. Okay, che a volte invece funziona nella maniera opposta. Ad esempio, so che Elton John e Bernie Taupin lavoravano, almeno una volta lavoravano in maniera opposta. Bernie Ma no, Taupin Elton mi ha testi. Detto che ultimamente ha cambiato un po'. Bene, quando è uscito questo disco? Questo Mammo disco Tom? È uscito a febbraio. A febbraio, quindi sì, è piuttosto recente. Sì, ancora. Sì. Adesso lo stai promuovendo in giro per l'Italia. A proposito, domani sera Francesco suonerà al chiosco che è in via Ariosto 10 in zona Stanga, all'aperto. Mi raccomando, gente di Padova. Prima Bigoli all'Anatra e poi blues. Ok. Allora, ci ascoltiamo un altro brano dall'album, così intanto ti riposi un momento. Questo pezzo si intitola Blind Track. C'è qualcosa che vuoi dirci sul pezzo? O... Questo è un altro brano, appunto, che scaturisce dalla collaborazione tra me, Daniele e Tenka. La parte strumentale in un mio momento, diciamo, di nostalgia. Appunto, ora, come hai detto prima tu, vivo a Milano, quindi diciamo che passare dalla Sardegna a Milano magari ti porta qualche momento di sconforto, e allora l'ho voluto un po' testimoniare così, mettendomi a suonare mi è venuta questo brano malinconico, e Daniele ci ha messo un testo con la sua malinconia del momento, quindi poi c'è da dire anche che io e Daniele siamo tutti e due interisti, quindi voglio dire, più malinconici di così, allora anche tu, ok, perfetto, no, viva il blues, ragazzi, abbiamo degli ospiti interisti qua, invece che solo blues e black in questo caso Più black ultimamente. Ok, allora ci ascoltiamo questa Blind Track. I learned how to get close. I learned how to stay away. I learned to wait up for your call. I learned the words that I can say. Found me a spot on a dark blind track. Do you find me a spot on a dark blind track? I learned to turn the other cheek. I learned to take a deep breath. I learned to hide away your leash. I learned to smile when I was sad. Found me a spot on a dark blind track. Do dark blind thread. Learn a place for me in your hand. I learn to cool and freeze my blue. I learn to play the part you play. Till you found me a spot. On a dark blind track, do you find me a spot? On a dark blind track, on a dark blind. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, questa era Blind Track, come avevo annunciato prima. Ci sono anche dei pezzi più intimisti in questo disco, anche molto bella l'atmosfera. E Francesco è amico di un nostro amico, un altro grande musicista che è stato mio ospite qualche mese fa, sto parlando di Cesare Carugi, e il suo nome è affiorato qua e mi è venuto in mente che volevo così parlare, presentare a tutti un'iniziativa che ha fatto Cesare. Lui è molto legato alla città di Ferrara perché ci abita la sua compagna, città che, inutile dirlo, lo sapete tutti, è stata colpita pesantemente dal terremoto, e Cesare ha voluto fare qualcosa, ha realizzato una canzone che si intitola Pick Me a Song, una canzone che lui vende, diciamo, per scopo di beneficenza. Chiunque farà un versamento da 2 euro in su tramite il suo sito internet o la sua pagina Facebook riceverà la canzone, e tutti i soldi raccolti verranno usati appunto per non so esattamente, devono ancora decidere perché c'è solo l'imbarazzo della scelta. Comunque si prenderà carico lui e Enrica, la sua compagna, appunto, di utilizzare questo denaro per i terremotati della zona. Quindi, ecco, è un appello che io faccio a tutti, è una bella canzone, fra l'altro. Quindi sì, Cesare ha voluto fare quello che poteva, come molti altri, e in questo caso invece di dare i 2 euro con un SMS e non aver niente in cambio, avete anche una bella canzone, quindi fatelo. Cesare Carugi, lo cercate su Facebook o su internet, sul suo sito. No, io volevo salutare Cesare, e un messaggio in codice era Gao. Questo ci capiamo noi. Va bene, ok, noi stiamo fuori da queste da questi misteri. E anche tu naturalmente hai il tuo sito internet che si chiama francescopiu.com. Esatto. Abbastanza facile da ricordare. Naturalmente sarai su Facebook. Come sono tutti su Facebook, quindi mi trovate sia come pagina artista che come pagina appunto normale. Dai. Il cazzeggio si dice. Esatto. Il termine tecnico. Sì. Tu suoni molto dal vivo, mi pare di capire. Sì, sì, fortunatamente, dai. Quante date fai mediamente? Ma dipende, nel senso quest'anno magari mettiamo che c'è un po' più di crisi, però diciamo che non mi posso lamentare, quindi sono un po' sotto la media, però dai, una media di 120-130 date l'anno, dai. Beh, non è male come media. E hai suonato anche all'estero? Sì, ho suonato negli Stati Uniti, ho suonato in Francia, Norvegia, Scozia, Slovenia, Svizzera, Spagna, un po'. E che effetto fa, ad esempio, uno svizzero trovare un italiano che suona blues in maniera così veemente? Ma a me spiace dire questa cosa, però ogni volta che varco il confine italiano trovo sempre un pubblico più attento, più rispettoso, diciamo, di chi sta sul palco. Cioè, adesso non voglio fare, diciamo, generalizzare, però vedo che c'è più rispetto, cioè si prende anche più sul serio il lavoro che uno appunto come me fa. Molte volte magari qua non succede, magari puoi essere considerato come un come tappezzeria o come, cioè non sempre appunto c'è neanche la curiosità, purtroppo. Non dico che appunto il blues deve piacere a tutti, però a volte vedo che fuori la gente ha più curiosità di comunque di prendersi il suo tempo e ascoltare la musica e poi valutare se eventualmente è la musica che gli appartiene di più o meno, questa che propongo. Però non so, mi spiace un po' questa è una cosa che ho notato anch'io, soprattutto in Nord Europa, diciamo Germania, Svizzera, sì, io sono stato anche un paio di volte per concerti in Svizzera, Austria, insomma c'è forse una questione anche di rispetto. Io ho l'impressione che molte volte la gente non si renda conto, cioè, e anche io qua ti vedo che suoni disinvolto, tranquillo, va tutto bene, però prima di arrivare a questo c'è un po' di anni di lavoro e di impegno che andrebbero, certo, considerati e rispettati. Vedo che hai ripescato la nostra amica Metallica. Ok. cosa ci suoni adesso? Allora, suonerò ancora un brano da Mammoth Tones, un brano gospel, e volevo niente rispondere un attimino a Massimiliano che mi ha scritto da Facebook e vuole sentire la lapsil del maestro Roberto Reani. Io sono orgoglioso di portare in giro le lapsil di Roberto Reani, però ora sono qua in studio e sto suonando totalmente in acustico, unplugged, perciò mi spiace, la potrai sentire dal vivo nelle prossime serate. Ok. Prossimamente su questi schermi. Ok, questo brano invece è Down on My Knees. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. No, down, no, down, no, down. questa era Down on My Knees. Bene, a chi ci ascolta la radio dovete sapere che il suono vi arriva leggermente processato, ci sono dei compressori, degli apparecchi insomma che equalizzano un po', tagliano certe frequenze, certi volumi. Questo per dirvi che qui in studio questa chitarra fa veramente un volume notevole, cioè per essere uno strumento acustico senza amplificazione il discorso che facevi prima appunto assume un certo significato, anche perché se uno suonasse magari in un posto dove ha alle spalle una struttura, qualche cosa in maniera da creare un po' di cassa armonica, il volume che si ottiene è veramente interessante. Senza elettricità, quindi senza inquinamento, senza solo con la forza delle braccia, delle dita. Io vedo qua nel disco c'è una cover di un pezzo tradizionale che è Trouble So Hard. Sì. Che è un pezzo che è un traditional, quindi nessuno prende i soldi, però se esistesse questo qualcuno ne avrebbe fatti parecchi, perché questo è uno dei brani che Moby ha campionato, esatto, nel suo famoso disco di ormai più di 10 anni del 2000, sì. Del 2000, che ha venduto, che è stato usato per 3 anni, tutte le pubblicità erano solo musica di Moby. Ecco, volevo sapere cosa pensavi tu di quello che ha fatto Moby con questo brano. Ma secondo me è stato appunto avuto un'intuizione veramente notevole, perché comunque ha preso il brano originale che è stato cantato da Vera Hall, è stato cantato a cappella, quindi il brano era appunto, non aveva la musica, e Moby ci ha costruito attorno tutto il brano, quindi con tutto il suo mondo elettronico ha sposato in maniera secondo me appunto notevole, molto bella, un sound tradizionale gospel con un sound totalmente moderno e futurista, diciamo, quindi appunto secondo me è un genio comunque. Vabbè, sono perfettamente d'accordo, perché in effetti quello e altri 2 o 3 pezzi di quel disco erano assolutamente strepitosi. Te l'ho chiesto perché sai, molte volte nel vostro mondo, nel vostro, nel senso del bluesman, ci sono quei personaggi che invece sono, come dire, un po' tradizionalisti, ecco, e che perché avevo sentito anche su internet insomma qualcuno che aveva considerato la cosa una specie di sacrilegio, però francamente... Ma guarda, secondo me io sono molto invece aperto a queste cose, perché comunque voglio dire, sì, il blues è un qualcosa che viene dai primi del Novecento, però è anche vero che dopo il blues appunto abbiamo avuto il rock and roll, abbiamo avuto il soul, il rhythm and blues, e ora nel 2012 non possiamo far finta che queste cose non siano esistite, quindi cioè, la miscela secondo me fa parte del futuro alla fine. Sì, anche perché, come hai detto tu, le persone che avevo avuto io in ascoltando quei brani, quel disco, è che Moby avesse fatto la cosa con grande amore per quella musica, cioè, anche secondo me, e oltretutto ha fatto conoscere questo brano a decine di milioni di persone, insomma, cioè, quindi gli ha dato una visibilità notevole, che ripeto, lo ha fatto con eleganza, non è facile, perché dopo purtroppo, ecco, magari la sua strada è stata seguita anche da molta gente meno talentuosa, ma questo non è certo, vabbè, certo, non è certo colpa sua, insomma. Allora, ok, sto guardando l'orario perché abbiamo l'orologio qui davanti, direi che possiamo ascoltarci un altro brano, non so se cambiare, far ascoltare Trouble So Hard. Ah, se vuoi possiamo far ascoltare Trouble So Hard. Visto che ne abbiamo parlato adesso, non era in scaletta, ma comunque è molto bella come canzone, e così, visto che ne abbiamo parlato, okay, giusto anche sta, che gli ascoltatori, se no sembra che li abbiamo un po', come dire, quando metti, sai, fai vedere la caramella e poi te la mangi tu, non è bello. Allora, questa è Trouble So Hard. Se volete ascoltarlo, c'è iTunes. No, ce la facciamo ascoltare adesso. Ok, allora ci ascoltiamo Trouble So Hard. Oh, Questa era sempre Trouble So Hard in versione più scarna qui in studio. Siamo con Francesco Piu, che è qui per presentarci il suo album Mammutons. Questa era Trouble So Hard, abbiamo sentita prima la versione dall'album che conteneva anche i Mammutones, Bells Samples, vedo qui c'era, sì, erano campionati. Erano campionati. Ma i Mammutones esattamente come sono fatti? Cioè... Ma allora, i Mammutones, c'è questa maschera nera appunto di legno che io appunto ho voluto nella copertina, c'è la maschera dei Mammutones però tutta colorata, l'ho fatto appunto grazie al mio grafico Antonello Sedda. Abbiamo un po' inquietante. Sì, però quella l'abbiamo resa un po' più, diciamo, allegra. L'abbiamo inquinata, diciamo, quindi abbiamo messo tutti i patchwork di riviste americane, da appunto da sottolineare questa miscela di, delle mie radici con quelle americane. E quindi i mammutones hanno appunto, sono queste maschere qua, e poi hanno delle, portano dietro delle, delle campane, dei campanacci, appunto sono i campanacci che si sentivano nel brano, e sono dei campanacci molto pesanti, e quindi vanno in giro a fare questi passi, far suonare questi campanacci per, non so, sottolineare forse la loro ci sono dietro delle leggende, sì, cioè, qualcosa di ancestrale. Però il suono non è tanto da campana, è molto più grave, quasi un gong. Sì, un... sì. Quindi devono essere veramente pesanti. Sì, assolutamente. Interessante. E questo spezzone che ci hai suonato dal vivo, è suonato con questa chitarra che dovrebbe essere in un museo, ma tu continui a portare in giro. Sì, beh, è consunta, ma tenendo conto dell'età se li porta bene. È una chitarra dell'inizio del Novecento, giusto? Esatto, è una chitarra che appunto non ha... non ha scritte, non ha, cioè, a parte c'ha inciso i nomi degli antichi proprietari, Jerry e Linda, ce li ha incisi sulla tavola, però non so che marca sia. Sono nate anche delle leggende, si dice sia stata usata da Robert Johnson o da Skip James, non lo so. E quindi appunto volevo, adesso abbiamo un po' ripreso questo brano perché così, per far sentire un po' questa sonorità. Che comunque suona molto molto bene. E l'hai comprata negli Stati Uniti, dicevi? Sì, l'ho presa su eBay dagli Stati Uniti questa. Ah, ok. Su eBay l'ho adocchiata e ho detto questa deve avere il suo perché, e effettivamente. Quindi l'hai comprata senza averla suonata prima? Non l'ho suonata, però ho visto i legni e mi hanno un po' incuriosito, e allora ho detto proviamoci, e sono rimasto molto contento. L'ho utilizzata in due brani del disco, c'è il suono molto particolare. Un po' strano questa cosa, perché di solito i musicisti preferiscono provarli prima gli strumenti, da quello che mi hanno detto. Sì, vabbè, molti. Diciamo che non stavo spendendo cifre esagerate, quindi... Vabbè, ok, quindi se l'hai pagata poco, tenendo conto del fascino dello strumento e anche del bel suono che ha, hai fatto un affare. Sì, ho fatto un affare proprio. Beh, ogni tanto capita. Ok, allora... Però adesso ci suoni un brano con questa o con qualcosa? Ok, posso suonare anche con questa, dai. Ok, visto che ce l'hai già in canna, diciamo, già pronta. Ok, ancora un mio brano, si chiama Overdose of Sorrow. Ok, sempre Francesco Piu qui dal vivo su Blu Radio Veneto. Buon ascolto a tutti. Rock Wave, l'onda del rock. Sometimes you hurt my soul so bad. Somewhere you let me down so high. Something I know you want, something somehow I stay with you. You're an overdose sorrow. You're an overdose sorrow. Sometimes you treat sometimes, somewhere I know you've gone somewhere. Something I had to see, something come on, I forget you. You're an overdose sorrow. You're an overdose sorrow. Thank you. un bellissimo suono questa chitarra, Overdose of Sorrow era il titolo del brano. Non so, probabilmente è una questione psicologica, cioè mi sembra che il suono di questa chitarra, sapendo che la chitarra è vecchia, è come se il suono venisse dal passato. Non so, è una stupidaggine, però no, non è una stupidaggine, perché a me mi dà la stessa. Ah, ok. Okay. Mi ha suggerito questa chitarra, mi ha suggerito due brani del disco, cioè mi ha suggerito, suonando mi è venuto fuori questo brano e poi l'arrangiamento di Third Song from the Sun di Hendrix, quindi diamo i meriti anche alla chitarra, quindi sì, eBay. Tu sei autodidatta o? sì, ho imparato i rudimenti un po' a casa, un po' di accordi, e poi è successo che appunto mi sono appassionato un po' ai grandi chitarristi, Hendrix, anche il primo Santana, e quindi già da piccolo, diciamo, ho iniziato un po' a studiare sugli assoli e ho imparato un po' le posizioni. Un bambino prodigio, insomma. No, dai, mi divertivo e allora poi... Quindi sei andato avanti. Prima abbiamo parlato del discorso di concerti all'estero. In effetti, essendo stato diverse volte anch'io in Germania, in Austria, a vedere concerti, ho capito perfettamente quello che intendevi dire riguardo al pubblico che c'è là. Invece tu hai detto che sono andato anche negli Stati Uniti. Sì. Magari dove? Ma ho suonato all'International Blues Challenge a Memphis. Ah, ecco, allora, questo volevo sapere. Questi sono a Memphis, cioè la patria del blues. Del sì. Blues. Arriva questo dalla Sardegna, che aveva preso l'Atlante per vedere dove era, che va a suonare blues. Cioè, come se a Napoli arrivasse uno dall'Arizona, dal Texas, e dicesse adesso mi metto a fare la pizza. No? Come ti hanno accolto questa gente? Ma no, sono stati molto... Dai... molto ospitali, non so, è molto, voglio dire, nel mentre che suonavo appunto il pubblico era caldo, era, cioè non erano per niente sorpresi anche comunque dal fatto che un italiano, perché vabbè, più che sardo, perché allora sì, un italiano comunque alla fine comunque il contesto era l'International Blues Challenge, quindi c'ero io di anomalo, diciamo, a suonare il blues, ma c'era anche chi veniva dalla Thailandia, c'era chi veniva, cioè, quindi era, voglio dire, erano preparati a sentire anche un po' di blues in salsa mediterranea, dai. Okay, ma non ho mai sentito parlare di questa cosa. È un concorso? Sì, è un contest appunto mondiale, praticamente si fanno le selezioni per ogni stato e appunto nel 2010 ho fatto le selezioni proprio al Delta Blues di Rovigo qua, e quindi ero stato, diciamo, nominato il rappresentante italiano, dai. Bene, ma dopo lì ci sono dei premi o, cioè, sono... Ma sì, si arriva là in finale a Memphis e poi di là comunque, diciamo, c'è la vera e propria gara con gli americani, con tutti, però francamente non proprio mi sono goduto l'esperienza, il viaggio, senza nessuna, diciamo, velleità di arrivare neanche nella finale. Ero felicissimo solo di essere là a Memphis, quindi, cioè, le gare le facevo fare agli altri, andava bene solo partecipare. Immagino, insomma, deve essere stata una bella emozione. Si vincevano comunque, penso, dei soldi anche. C'era anche mi ricordo la Gibson fatta proprio con il logo dell'International Blues Challenge, perché c'è la Gibson a Memphis e quindi si vinceva la Gibson, però vabbè, diciamo che chitarre ne avevamo, quindi non avevamo neanche quella. Ok, allora un altro brano dal disco, questo avevi detto che ha un'atmosfera un po' reggae, giusto? Sì, allora qua ho voluto fare questo brano. È un brano che ho scritto, che avevo già, diciamo, scritto un po' di tempo fa, un po' di anni fa. Poi l'ho ripreso e grazie all'aiuto anche del mio batterista Pablo Leoni, che oltre che suonare blues ha suonato anche in gruppi reggae. Allora ha messo questo ingrediente qua del ritmo in levare, mi è piaciuto e quindi abbiamo voluto provare a fondere il reggae con il blues. Ok, il titolo del brano è Hooks in My Skin, e naturalmente è un altro estratto dall'album di Francesco Mamutons. Hooks in my skin. kid, can we take him free? You got to hurt somebody's kid, and I'll tell you will. You got to hurt somebody's kid. Have you heard you feel? It's hard to make my way with you. Questa era Hooks and My Skin con queste atmosfere reggae che suonano peraltro molto bene dentro al disco. Pare che il reggae sia un'altra cosa arrivata, sia pure dopo lungo viaggio dal blues, dicono. Questo non lo so, però. Ma ho letto che insomma ci sono delle discussioni fra i musicologi, vabbè, non ci limitiamo ad ascoltarla la musica. Una cosa importante, se uno volesse comprare il tuo disco. Allora, se volesse comprare il mio disco, vabbè, oltre che appunto nei miei concerti, poi lo si può trovare su iTunes, lo si può trovare su Amazon, proprio quindi il disco fisico su Amazon, oppure c'è anche un altro sito, se non sbaglio è un catalogo online, si chiama IBS, quindi se cliccate ibs.it.com, non lo so, cercate, e poi lo si trova in vari negozi di dischi, anche alle Feltrinelli si può ordinare, quindi nel senso, poi mi potete anche contattare via mail, io vi posso dare un po' il link, vi ricordo il mio sito francescopiu.com e io dalla francescopiu.com, tutto attaccato, minuscolo, senza punti in mezzo. Okay. È importante, ho scoperto, certo. Dire il sito internet e dirlo bene, perché sennò poi magari arriva la telefonata e uno dice ma io ho provato e non... sì. Ok, il disco si intitola Mammutons, vi ricordo, è prodotto da Eric Bibb, un grande bluesman. Come abbiamo sentito, è un disco che può affrontare, direi, a fronte alta qualsiasi concorrenza internazionale, perché insomma è un genere questo che vede molta, molta concorrenza, però è bello insomma poter dire che anche il musicista italiano ha una parola in piazza, come si diceva una volta, cioè poi possiamo andare a fronte alta contro qualsiasi, non voglio dire avversario perché non si tratta di avversari, ma contro qualsiasi confronto, ecco. E siamo giunti verso la fine di questo appuntamento con Rock Wave, con Francesco Più. Lo so che capita spesso che qualcuno... Sì, infatti mi chiamano anche Frankie Moore. Per gli americani, per spiegare, va bene, però lo pronunciano bene più gli americani, sì. Non è difficile, ma non gli capita spesso magari di pronunciarlo. Ok, ricordo che Francesco domani sera suonerà a Il Chiosco in via Ariosto 10 in zona Stanga, per tutti i padovani o non padovani che volessero vivere una bella serata di blues. Fra l'altro è un locale all'aperto e in questi giorni a Padova si può stare all'aperto senza soffrire le pene dell'inferno, quindi consiglio a tutti di passare una bella serata con la musica di Francesco, che come avete sentito è veramente bravo. E Francesco, noi tutti ti ringraziamo Agostino per la puntuale regia, come al solito inappuntabile, e non so, mi auguro di averti prossimamente, speriamo, dai, nostro ospite, insomma quando vuoi tornare sei il benvenuto, tu e le tue innumerevoli chitarre, perché sì, abbiamo appena scoperto che ne ha portate tre ma ne ha lasciate a casa molte altre, quindi ogni chitarra ha una storia, ogni chitarra ha delle canzoni, e va bene, la prossima volta ce ne porterai qualcun'altra magari. Ok, grazie mille a tutti voi. Grazie a te, e dici con che brano ci auguri la buonanotte. Ma dato che appunto siamo prossimi alla mezzanotte, volevo fare un brano di Robert Johnson, From Forward Till Late. Perfetto, direi. Buonanotte a tutti da Stefano Dainese e Francesco Piu. crime. From four on a leer, I will wrap my hands on crime. I believe to my soul that your dad has gone for bound. When I leave this town, I'm gonna beat you fair, farewell. Gracias.